la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 13 di maggio, 16.30, primi 51 secondi, siamo in diretta dagli studi della radio di Milano. Oltre a salutarvi e ringraziarvi, vi ricordo il numero di telefono per intervenire, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. E vi dico subito qual è il tema, un po' paradossalmente ma non troppo, la domanda da rivolgervi oggi è: rispetto alla novità appresa stamattina sulla prima stima, la stima preliminare del PIL nel primo trimestre del 2015 Italia, quindi più 0,3% sul trimestre precedente, se volete che io cambio la sigla, cioè This is the end. Vi avevo detto un mese fa, mettendo le mani avanti ma spiegando, perché molti hanno continuato a dire cambia sta musica che porta male, avevo detto: guardate, io non mi aspetto chissà che cosa di crescita, se ci sono due trimestri di seguito almeno entrambi ciascuno più 0,3%, prometto che la cambio. Però intanto c'è questa prima stima preliminare del primo trimestre col più 0,3% sul trimestre precedente, in termini anno su anno rispetto al primo trimestre 2014 il risultato è zero. Però ve lo chiedo lo stesso, perché è un modo ovviamente indiretto per chiedervi come la prendete questa primo ritorno dal 2011 a un segno positivo, sia pur modestissimo, nell'andamento dell'economia italiana. Io vi ricordo che stamattina immediatamente sono partiti i commenti sui social dei membri del PD, sostenitori del governo, c'è chi ha scritto, questo l'ha scritto Joram Gutgeld, parlamentare PD, ex McKinsey e consigliere del Premier, che ha detto testualmente che al primo trimestre, dopo la prima legge di stabilità di questo governo, l'Italia cresce come la Germania. Perché la Germania ha avuto anch'essa un andamento più 0,3% nel primo trimestre. Peccato che non siamo reduci dallo stesso risultato accumulato della Germania. Peccato che ci manchino ancora 9,4 punti percentuali di PIL rispetto al pre-crisi. E ricordo, se guardiamo agli occupati, poi sul resto dell'andamento del lavoro lascio a voi commento, sì benissimo, ci sono più contratti a tempo indeterminato di prima e meno precari, però se guardiamo gli occupati, occupati in Italia 31 dicembre 2014, occupati in Italia a fine marzo, abbiamo 110.000 occupati, anzi 111.000 occupati in meno, non in più. Il primo trimestre di quest'anno, in meno non in più, sottolineo, mi auguro che gli altri trimestri provino che ci sia occupazione aggiuntiva e non solo sostitutiva per il tipo di contratto, ma ricordo a tutti che noi spenderemo per la decontribuzione al tempo indeterminato 2 miliardi quest'anno, 5 miliardi l'anno prossimo, 5 miliardi nel successivo, sono 12 miliardi, e io ero tra quelli che dicevano facciamo però questa decontribuzione per l'occupazione aggiuntiva, non per quella invariante e sostitutiva per tipo di contratto. Il governo ci rise dietro, per il momento l'occupazione aggiuntiva non c'è, c'è nemmeno, speriamo di sbagliare. Ma in caso contrario bisogna riflettere su questi 12 miliardi spesi per avere meno occupazione. Ma di fatto il dato di oggi, del giorno e di questa ripresa dal primo trimestre, più 0,3%, è una ripresa che è andata un po' meglio delle previsioni degli analisti, che dicevano più 0,2%. Io vi ricordo che il governo si attende uno più 0,7% quest'anno, l'Unione Europea più 0,6%, siamo sempre il paese che crescerà meno nelle attese dell'Unione Europea, tranne Cipro, poi il paese che fa peggio siamo noi. E rispetto a questo c'è stata una sorpresa, appunto non troppo positiva, dalla Germania, solo più 0,3% anche lei, una sorpresa invece molto positiva della Francia, che in questo primo trimestre, anche lì prima stima preliminare, fa più 0,6%, è tra i paesi che tirano di più, soprattutto con un contributo molto forte della domanda interna, che stava andando indietro da molti mesi in Francia, invece dà un contributo pari all'80% di questo 0,6%, nasce dall'aumento della domanda interna francese. È un po' il dato che stupisce positivamente tutti in termini comparati oggi, visto che da molti mesi parlavano della Francia come del grande malato. Allora, per capire meglio questo dato, due ospiti, per capire se lo dobbiamo prendere con molta cautela, con non troppo cautela, o stappare lo champagne, guardando soprattutto a quello che capita in Europa e nel mondo, visto che, come sapete, noi abbiamo un forte traino al PIL dalla domanda estera. Eppure in questo primo trimestre l'Istat dice che il contributo della domanda estera è stato più negativo che positivo, anzi la cosa positiva è che viene più che pareggiato l'effetto negativo della domanda estera dall'andamento della domanda interna, quindi primi segni di una domanda interna che riprende anch'essa, ci dice l'Istat. Allora, i nostri due ospiti sono da una parte il professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica ed è presidente di Ref Ricerche. Buon pomeriggio e grazie professore di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Ed Elena Mazzoni, ricercatrice del CER, Centro Europa Ricerche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Elena Mazzoni, col permesso del professore, comincerei da lei. Perché? Perché ieri avete rilasciato un rapporto, un osservatorio internazionale su come vanno le cose sui mercati internazionali, che secondo me è utile per inquadrare un pochino il dato italiano, perché la cosa che mi ha colpito di più dei dati che avete messo in termini comparati ieri sul vostro sito in questo report è il fatto che sta succedendo un po' in questo 2015 quasi peggio nel 2014, proprio per la componente che ci interessa molto, perché traina l'export italiano, cioè in realtà il commercio mondiale in questo inizio d'anno rispetto ad attese di crescita molto più sostenute dell'anno scorso, perché siamo reduci da due anni in cui abbiamo dovuto correggere al ribasso le stime iniziali di ripresa del commercio mondiale, che resta molto lontano in questi ultimi due anni dai tassi di crescita che aveva avuto dopo la crisi del 2008-2009, però anche in questi primi mesi i segnali sono un po' deludenti sull'andamento del commercio mondiale, perché tra l'andamento e l'effetto della guerra delle valute, di una diminuzione dell'importazione dei paesi emergenti, diciamo così, il commercio mondiale non sta andando molto bene. È così, Eleonora? Ma diciamo che per quanto riguarda il commercio mondiale, quello che continuiamo ad osservare da diciamo qualche anno a questa parte è un commercio mondiale che ha smesso di crescere più di quanto cresca l'economia, quindi come è stato negli anni ruggenti post 2001 fino al 2007. Sì, esattamente, quindi questo sicuramente lo continuiamo ad osservare. In questo inizio del 2015 ha pesato sicuramente il rallentamento, in particolare delle importazioni in parte dai paesi emergenti, perché chiaramente abbiamo delle tensioni geopolitiche che influenzano questo dato, e in parte la contrazione delle importazioni degli Stati Uniti, che in termini appunto congiunturali comunque ha pesato sul dato totale. Questo rallentamento negli Stati Uniti poi diciamo ha carattere congiunturale, perché rispetto alla crescita molto sostenuta dell'anno passato, gli Stati Uniti mostrano un leggero rallentamento della crescita economica, che però viene da molti ritenuto anche normale dopo una fase di accelerata e rapida crescita economica. Quindi sì, diciamo che osserviamo questa scarsa dinamica di crescita del commercio mondiale, soprattutto se confrontato per l'appunto con la dinamica della crescita economica del PIL mondiale poi sostanzialmente. E quindi questo lascia un punto interrogativo sui mesi a venire su cosa avverrà del traino del nostro export al consolidamento di questo primo dato del primo trimestre. Una seconda domanda che le vorrei fare riguarda l'effetto invece degli andamenti dei cambi, perché ci si aspettava dopo l'inizio del quantitative easing della BCE con Mario Draghi di vedere non solo raggiunta la parità euro-dollaro ma di scendere addirittura sotto, visto l'andamento delle prime settimane dopo che il QE era partito. Poi a un certo punto gli Stati Uniti si sono come scocciati, per così dire, dell'apprezzamento del dollaro, e la cosa si è un po' fermata, e questo in un quadro in cui comunque c'è una grande guerra al ribasso delle valute mondiali. Ecco, questo, gli ultimi segni che si vedono in quest'ultimo mese del trimestre, che cosa possono fare pensare rispetto alle sue conseguenze sull'andamento della crescita italiana in questo 2015? Noi ci avvantaggeremmo di che cosa in termini di cambio valutario, oltre che ovviamente di un euro che riprendesse a scendere rispetto al dollaro? Allora, innanzitutto le variazioni dei tassi di cambio appunto di tutte le principali valute sono state significative, quindi ad esempio il tasso di cambio dell'area euro, non, insomma, dell'euro, quindi non si è svalutato solo nei confronti del dollaro, ma si è svalutato anche in termini di tasso di cambio reale effettivo, quindi comunque nei confronti di un paniere sufficientemente ampio di valute degli altri paesi. Sì. Quindi per quanto riguarda l'area euro, sicuramente questo costituisce un fattore di potenziale spinta in termini di competitività e quindi di sostegno alle esportazioni dell'intera area, di cui la crescita economica dell'area potrebbe beneficiare. Certo è che ci sono altri fattori contemporaneamente nello scenario internazionale che vanno considerati e che potranno agire contestualmente sia da fattori di potenziale spinta sia da fattori di rischio insieme al tasso di cambio, ad esempio la bassa inflazione, ad esempio le quotazioni internazionali del petrolio che continuano comunque ad essere molto basse e in una tendenza di flessione. Quindi sicuramente come Italia appartenente all'area euro potremmo beneficiare della svalutazione del tasso di cambio dell'euro e insomma soprattutto anche nei confronti del dollaro, perché gli Stati Uniti restano il principale importatore internazionale per l'Unione Europea, per l'Europa e per l'euro, certo, ed è anche una componente quindi essenziale dell'export italiano. Però se noi andiamo a vedere i tre grandi fattori che hanno fatto, che giustamente, no, i tre fattori esogeni esterni rispetto all'Italia che ci aiutano a crescere, aiutano noi come tutta Europa, e cioè appunto da una parte la politica espansiva da parte della Banca Centrale Europea, dall'altra il tasso di cambio, dall'altra l'andamento del prezzo del petrolio, è un po' come se si fosse attenuato l'effetto ultimamente, perché se andiamo a vedere il petrolio siamo passati dai minimi di inizio d'anno, cioè il Brent 42-43 dollari, siamo a 62-65, quindi c'è stato un aumento del 50%, restiamo molto lontani dai 114 dollari da giugno dell'anno scorso, però insomma tra Arabia Saudita e Stati Uniti insomma si capisce che c'è una frizione, ecco, che non è solo geopolitica, è anche proprio anche effetti sulla domanda, sull'offerta e sull'andamento del prezzo del petrolio, quindi c'è un primo elemento che si potrebbe attenuare. Il secondo elemento, se uno va a guardare, Leonora, le variazioni incredibili che ci sono state nelle ultime settimane sui tassi di interesse, sui rendimenti dei titoli nel mercato del reddito fisso e dei titoli pubblici, cioè per esempio i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni passati da 0,05% a 0,5%, quindi un aumento di fattore 10 che cambia, è come se da una parte gli effetti dei bassi tassi di interesse che abbiamo immaginato fino a fine dell'anno prossimo almeno terranno buono lo spread, quindi gli interessi sul debito pubblico eccetera eccetera, tutto ciò molto positivo per la crescita, ma dall'altra come se i mercati iniziassero a incorporare subito il fatto, no, si torna all'inflazione molto prima di quanto non si immaginasse, senza aspettare l'anno prossimo. Con questi due elementi, petrolio e tassi di interesse, voi come li vedete? Ma per quanto riguarda le quotazioni internazionali del prezzo del petrolio, io credo che questo è stato riportato anche insomma da molte altre note osservatori, esatto, che in parte diciamo la tendenza delle quotazioni internazionali del petrolio sia destinata ad avere nel lungo periodo di nuovo un trend crescente, ma appunto in parte proprio perché, come si diceva giustamente poco fa, è una variabile principalmente influenzata dalle decisioni chiaramente dei produttori internazionali e quindi che viene influenzata molto dal lato dell'offerta. E però in questo momento vale ancora, credo, il fatto che nonostante siamo congiunturalmente su un trend leggermente crescente rispetto a quello dell'anno passato, il livello è ancora molto molto molto basso rispetto a quello diciamo dei 24 mesi precedenti, quindi ancora questo può avere un'influenza positiva. Per quanto riguarda i tassi di interesse e in particolare particolari legati agli effetti delle politiche dell'alleggerimento quantitativo, insomma, avviato dalla Banca Centrale Europea. Consideriamo che questo programma è stato avviato nonostante fosse stato già annunciato in precedenza e quindi in parte incorporato nelle aspettative degli operatori, però è stato avviato solamente nel mese di marzo. Quindi voi anche lì siete abbastanza positivi, vediamo nel tempo, ma non pensiamo però, che questo dovrebbe... alcuni effetti come ad esempio appunto immediatamente sui tassi di interesse a breve termine, che chiaramente riflettono immediatamente e che si dovrebbero trasferire tramite il credito all'economia reale, già si vedono, perché abbiamo un Euribor che è stato, come è stato riportato da tutte le testate giornalistiche, che si è avvicinato praticamente sotto zero, quindi bisogna vedere se questo riuscirà a trasferirsi in tempi rapidi all'economia reale. E questo significa per l'Italia tentare di disostruire il canale del credito alle imprese e alle famiglie, che resta ostruito da quella montagna del 12% di non performing loss, cioè di credito deteriorato, e come sapete questo governo da qualche mese non riesce a venire a capo con l'Unione Europea sulle condizioni per un intervento, diciamo così, straordinario, sistemico, sull'eccesso di credito deteriorato della parte media e bassa, cioè quella preponderante delle banche italiane, cioè eccezione fatta per Unicredit e Intesa e pochissimi altri istituti che riescono a liberarsi con criteri di mercato dell'eccesso di credito deteriorato, che gli blocca patrimonio e quindi gli limita gli impieghi, tutti gli altri invece boccheggiano. Allora, io nel frattempo ringrazio Eleonora per questo quadro che ci ha dato sulle cose internazionali, perché adesso col professor Vaciago, subito dopo l'interruzione, andiamo alle domande di fondo, cioè questi segnali, come vedete, un po' diversi dalle aspettative, che restano positive ma forse meno lunghi e meno intense di quanto si potesse immaginare. A che considerazioni devono spingere il governo e il dibattito pubblico italiano? E soprattutto, quanto merito c'è, secondo il professor Vaciago, di questo bel segno in più dopo il 2011, visto che la gran cassa è già partita? Quanto è giustificato invece un po' di sana diffidenza rispetto a decisioni che vengono ancora una volta diluite nel tempo? Ecco, ripartiamo dal professor Vaciago tra 60 secondi su questi interrogativi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48 primi 25 secondi, sulla interpretazione di questo ritorno dopo il 2011 nel primo trimestre, prima stima preliminare, con un più 0,3% dell'economia italiana. E col professor Giacomo Vaciago adesso sentiamo di capire il suo giudizio su quanto di questo spetta al governo, A, B, quanto bisognerebbe fare qualche cosa di più rapidamente, piuttosto che invece contare su un tempo molto lungo fino alla fine dell'anno prossimo, in cui tutto sommato tra mercati internazionali, bassi tassi di interesse, bassi costi delle materie prime, un euro che si è svalutato significativamente, tutto ciò ci dà un orizzonte più lungo nel tempo, quindi inutile avere l'acceleratore qualunque tipo di decisione si dovesse assumere. Che dice, professore? Ma due cose, anzitutto che questo 0,3 del primo trimestre rispetto allo 0 del quarto, sempre congiunturale, è una buona notizia, ma è purtroppo coerente con un annuo 0,7 che poi è la stima del governo. Sì, perché quindi l'incorporato sul 2015 è più 0,2% di questo. Esatto, se è merito del governo, è merito del governo il moderato ottimismo che sta nello scenario macroeconomico del governo stesso. In altre parole, la ripresa non è l'obiettivo principale della politica economica. La politica economica ha un obiettivo di riforme che, come ovvio, non migliorano il trimestre, ma migliorano i prossimi 20 anni. Io non so, e nessuno lo sa, se l'ambizione di questo governo riuscirà a realizzare, diciamo, anche solo la metà di ciò che ha messo in cantiere. Basta guardare tutte le leggi deleghe e gli decreti attuativi che stanno oggi nel tubo del Parlamento. Ma se solo facesse anche solo metà di quello, dal mercato del lavoro al fisco, alla pubblica amministrazione, alla scuola, a tutto il resto, attenzione, a tutto il resto, alla Costituzione, alla legge elettorale, eccetera, se solo riuscisse a fare entro un anno anche almeno metà di tutto ciò, questo cambia completamente lo scenario dei prossimi 20 anni. Dice, ma allora il PIL nel prossimo trimestre come va? Beh, il PIL del prossimo trimestre è deciso dagli ultimi 20 anni, più o meno petrolio e quantitative easing, cioè la politica della congiuntura. Allora, noi abbiamo la fortuna, questo governo ha la fortuna, e quindi anche il paese, perché il paese e il governo sono un po' la stessa cosa. Abbiamo la fortuna di uno scenario quest'anno molto migliore degli anni scorsi. Il petrolio, Draghi e quant'altro ci hanno restituito potere d'acquisto alle famiglie. Mi aspetto le famiglie più ottimiste, non perché guardano in televisione il dibattito politico, quello semmai le dovrebbe deprimere, deprimere ma molto. Perché si trovano che oltre agli 80 euro che solo alcuni hanno avuto un anno fa dal governo, adesso ne abbiamo 120 tutti in più da petrolio. Attenzione, noi siamo il paese che più dipende dalle importazioni di petrolio e più dipende quindi da questo shock benefico che ha il petrolio, non dico a 40, quello era un eccesso, ma diciamo che a 60 rispetto a 112 è pur sempre dimezzato il mio costo, o va al fisco o va a me, così, fisco perché è quello che io risparmio in tasse, quindi perché molti dei nostri ascoltatori dicono beh, veramente la benzina è aumentata di 20 centesimi in 15 giorni, quindi c'è la solita. Al di là della volatilità, attenzione anche qui, guardiamo la tendenza, il 2015 ha uno scenario globale migliore del cosa, perché è stato restituito potere d'acquisto alle famiglie e i consumi e in parte anche alle imprese, ma diciamo che è due terzi alle famiglie e un terzo alle imprese il risparmio energetico. Allora è chiaro che ci sono tante altre variabili, è chiaro che se noi esportavamo molto in Russia in questo momento stiamo soffrendo, non per le sanzioni di Obama, stiamo soffrendo perché la Russia non ha potere d'acquisto, e tutta l'area dei paesi, cioè c'è stato un riposizionamento tra paesi emergenti e paesi avanzati. Le ragioni di scambio, i loro tassi di cambio sono scesi, le nostre ragioni di scambio sono migliorate. E questo vale anche per gli Stati Uniti, attenzione, l'America ha riguadagnato ragioni di scambio sui paesi emergenti e non a caso l'America va bene, questo è un anno positivo ancora. Attenzione, il dato di oggi, avete parlato molto del congiunturale, quindi del trimestre sul trimestre o precedente o rispetto alle attese, il più congiunturale possibile è ragionare sul trimestre rispetto alle attese degli economisti, questo è veramente, ti dà veramente l'idea della psicologia, la borsa reagisce a questo. Ma l'economista serio deve guardare anche molto anno su anno. Anno su anno noi siamo ancora a zero, e l'America è tre, e l'Eurozona è 1,5, e vale ancora, attenzione, che i 9 che non sono nell'euro crescono un pochino di più dei 19 che stanno nell'euro. Quindi l'euro è ancora una moneta che frena. Ecco. L'essere nell'euro e non avere una politica economica, Draghi è l'unica cosa che siamo riusciti a fare a 19 di positivo, visto che le altre cose, i 19, le hanno fatte uno contro l'altro, o facendosi le prediche reciprocamente, per cui i tedeschi venivano a dire a Berlusconi o a Monti o a Letta cosa noi dovevamo fare, ma non è questo la moneta comune. La moneta comune è cosa facciamo assieme. O peggio ancora andarli a punire come si è fatto nei confronti della Grecia. Voi avete sbagliato, quindi adesso vi puniamo. È come se la moglie picchi al marito per i suoi errori. Beh, non è una grande unione. Non è una grande idea. Anche se li è meritati, Unione. No, comunque lei con questo punto ultimo della crescita di chi non ha l'euro, più forte di chi ha l'euro, perché l'euro non funziona come l'euro. Rimane un problema fondamentale che è sentitissimo, come lei sa, non solo ai nostri ascoltatori, insomma, il dibattito pubblico italiano ormai è decollato, per così dire. E io spero solo che oggi abbiamo dato a chi ci ha ascoltato un'idea della complessità di questa eredità ventennale. Dico solo questo, oggi c'è il dato dell'occupazione nel Regno Unito, occupazione del 73,5%, noi stentiamo a stare sopra il 55%. Diffidate, posso dire quest'ultima cosa, lo dico a nome mio, non del professor Vaciago, di chi vi invita a riflettere sui trionfi, di che cosa di questo trimestre si deve a quello che avviene in queste settimane. Diffidate, il problema italiano è molto lungo e molto complicato, e quella scelta europea di fondo bisognerà prenderla o aggiustarla o comunque quello che ne deriverà se non si aggiusta. Grazie al professor Vaciago, continuate con la 24, appuntamento come a domani.